Oggi è la festa, la solennità dell'Assunta, ossia la festa in cui celebriamo Maria, la mamma di Gesù, assunta in cielo in anima e corpo. Maria è in anima e corpo in cielo. Questo è un dogma della nostra fede, ossia un pronunciamento esplicito da parte del Papa, di quello che il cristiano è tenuto a credere, che è stato pronunciato nel 1950, quindi abbastanza recente, ma nello stesso tempo affonda le sue radici già agli inizi dell'era cristiana. Cioè, sin dagli inizi si è sempre creduto a Maria assunta in cielo in anima e corpo. Perché? Perché Maria è la madre di Dio e il corpo di Gesù è il corpo di Maria e il corpo di Maria è il corpo di Gesù. Quindi come Gesù è glorioso col suo corpo in cielo, così è conveniente che anche il corpo di Maria sia glorioso in cielo. E durante questa celebrazione vediamo nel Vangelo, oggi leggiamo nel Vangelo di Luca il famoso Magnificat, che è una preghiera che la Madonna innalza a Dio e che la liturgia delle ore, ossia la liturgia che viene pregata soprattutto nei monasteri e tra i religiosi, ma anche raccomandata ai laici, e ogni giorno ai vespri recita questa preghiera del Magnificat. Che cos'è il Magnificat? È quando Maria risponde a Elisabetta, la cugina, quando va a trovare la cugina Elisabetta, che le dice benedetta tu fra le donne, e poi le dice anche beata te che hai creduto. Maria risponde con queste parole: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ecco, poi il cantico continua, questa preghiera continua, ma mi vorrei fermare solo su questi versetti. L'anima mia magnifica il Signore, cioè la mia anima rende grande il Signore. In che modo rende grande il Signore? Il Signore è già grande, ma lo rende grande nel senso che fa vedere la grandezza di Dio. Perché? Perché molte volte noi, con le sole nostre forze, non avremmo potuto fare quello che abbiamo potuto fare. La Madonna non avrebbe potuto affrontare quello che ha potuto affrontare. Quindi magnifica il Signore la sua anima, perché è riuscita a dire di sì a questo grande compito di essere la madre di Dio. E anche noi possiamo dire la stessa cosa. Quante cose abbiamo potuto fare con l'aiuto del Signore. Allora oggi vorrei invitare voi, anche me stessa, a rendere grande il Signore, nel senso a far vedere quanto è grande il Signore, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Pensiamo a quante cose siamo riusciti a fare e che da soli non avremmo mai fatto. Per esempio, alle volte potrebbe essere affrontare delle difficoltà nel lavoro, oppure delle difficoltà relazionali, oppure chiedere perdono ad una persona, oppure assolvere a un compito, oppure portare avanti una scelta quando la scelta diventa molto pericolosa e anche rischiosa. Ecco, quanti di noi abbiamo affrontato e stiamo affrontando difficoltà? Ecco, pensiamo a grandi cose che fa il Signore attraverso di noi, e poi vorrei invitarvi anche a maggiore devozione verso Maria. Infatti, Maria in questo cantico dice: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Che cosa vuol dire tutte le generazioni mi chiameranno beata? Che in ogni epoca ci sarà sempre la devozione verso la Madonna, perché tutte le generazioni mi chiameranno beata vuol dire che tutti riconosceranno che quanto io sia felice perché ho riposto la mia fiducia nel Signore. Allora ecco, rinnoviamo la nostra devozione verso Maria. Ricordiamoci che Maria deve essere proprio un esempio per noi e come ci dicono i santi, la vera devozione è imitazione. La vera devozione non è sentire il fervore nel cuoricino, il calore, ah, quanto è bello stare con la Madonna. La vera devozione è imitazione. Cerchiamo di imitare Maria e di rendere sempre più palese l'opera di Dio in noi. Buona giornata.